Yes Massive, come tutti i mercoledì, questa è Port Royal dalle 21 alle 23. Ieri è stata una data molto particolare per tutti noi, non potevamo che cominciare così. Dedicata a Carlo, rotta indipendente, assalti frontali. Ha avuto l'occasione, non ha voltato gli occhi e questa è la lezione, da insegnare nelle scuole, nei racconti che ti segnano le sere, cosa sparava in faccia quel carabiniere, io porto come il nome di Carlo Giuliani, noi facciamo la storia, mentre quelli fanno i piani come a Genova quel giorno, niente rumori di fondo e noi la sedia padroni del mondo, usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero, affronti il nemico e vedi il suo volto vero, in marcia il cuore, pompa esaltazione, una soluzione, inizia quando inizia una rivoluzione. Ma l'orizzonte è già alto, denso e nero. È un bel dito medio alzato di dove sto scendendo. Siamo in ballo adesso. Nero spegne il sole se li spari addosso. Lo spegne il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, fatto imminente. Roda marassale, alta, potente. Il 20 luglio insegnate un segnale. Il 20 luglio per noi è l'introduzione alla guerra globale. Ho studiato strade in tutta la cartina. Ma ormai la Palestina, Genova e Genova in Argentina. Dietro contadine in marcia dalla Francia. Davanti in bocche dei fucili puntati alla pancia. Elicotteri battono il cielo, motoscafi il mare. Ministri infilano mimetiche per comandare. Ed arrivano, li vedo arrivare. Ho già negli occhi le bombe da intervento speciale. Ecco gli arrivano i carabinieri, i mercenari. Oggi sono pronti a fare straordinari. Noi ci stringiamo, ci facciamo forza a vicenda. Ci passiamo acqua, intanto cresce la faccenda. È un tempo questo pieno di violenza. E su strade senza tempo noi facciamo resistenza. Siamo in ballo adesso. E non spegni il sole se li spari addosso. Non spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, fatto imminente, lodo malassale, alta, potente. Il sole brilla con le nostre vite, proietta raggi per distanze infinite. Il sole brilla con le nostre vite, proietta raggi per distanze infinite. Ci siamo dentro ormai, ormai ovunque la battaglia. Meglio muoversi in fretta e muoversi in bassa montagna. Parlare ora di no, non violenza, a questo punto inutile nella mia esperienza. Attaccano col gas combinato col cianuro, poi le pistole sparano per stare più al sicuro. Hanno studiato bene quindi, sanno che il panico ti pende tra la gola, ti afferra lo stomaco, ma non spegni il sole solo perché chiudi gli occhi e noi in combinazione difendiamo i nostri blocchi. Comunità le formerà, diamo ossigeno all'aria, barricate le alziamo e respiriamo nell'aria incendiaria, mentre mezzi militari vanno a palla sui viali, addosso alle persone, ma siamo persone speciali, avanziamo e indietreggiamo come una molla, mentre ambulanze prendono feriti tra la folla, un blindato è lì, rimane in pace, è svuotato e dato in cima alle fiamme, siamo una folla chiara e promessa al ricordo, in marcia nel mondo gettando grano fecondo, siamo in tanti. Siamo da tutte le parti e Carlo fino all'ultimo è rimasto davanti fino a alzarsi con un estintore in primo piano ed ha insegnato a vedere cos'è un essere umano. Noi siamo in ballo adesso. E non spegni il sole se li spari addosso. Non spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, fatto imminente. Rotta massale, alta potente. Siamo in ballo adesso. E non spegni il sole se li spari addosso. Non spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente. Yes Massive, non spegni il sole neanche se gli spari addosso. Una di qua, una di là, solamente per pensare, anzi solamente per pensare. Escape. Yes Massive, non spegni il sole neanche se gli spari addosso. Una di qua, una di là, solamente per pensare. E passiamo direttamente alla terza, allora. Piazza Giuliani, Radici nel cemento, dall'album 7. Solamente por pensare è andata così. E dopo il tributo più che dovuto, cominciamo la trasmissione. Questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23. Questa settimana intervistiamo i Beating Souls per lo spazio insieme a Red, Gold & Green. Allora, come avrete capito, c'è qualche problema tecnico. Ritorniamo tra due minuti. Bless up yourself. Bella a tutte e a tutti. E siamo tornati, questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23. Eravamo arrivati allo spazio intervista, la prima intervista di questa sera è Beating Souls, nuova produzione Red, Gold and Green con il loro singolo Colorful World. E ci andiamo a sentire prima l'intervista e poi il pezzo. Inauguriamo lo spazio intervista di questa sera con la nuova proposta da parte di Red, Gold and Green Label. Questa settimana presentiamo Colorful World, il nuovo singolo dei Beating Souls, finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali, il primo singolo ufficiale dei Beating Souls, il nuovo progetto nato dalla mente di Alessandro Lobosco, in arte Ale Sciamana. La gente da tutti i paesi ridisegna insieme il mondo con tre colori, pochi, fondamentali, semplici, ma se usati bene creano grandi risultati per tutti. Con questi tre colori si possono disegnare gli elementi positivi e pacifici essenziali, sole, acqua, aria, pianta e amore. Un mondo fatto di più colori, non uno solo, è più bello. No al razzismo e al conformismo, sì alle diversità. Se ognuno dà il suo colore, il suo contributo positivo in modo intelligente, è possibile creare una realtà pacifica per tutti. Il video è stato girato a Bruano ed è una location altamente simbolica per celebrare per la celebre presenza, scusate, delle case variopinte, a significare come l'unione della diversità sia possibile e porti bellezza. Un brano dalle sonorità roots, caratterizzato dal largo uso della sezione fiati, sulle quali si adagia dolcemente la voce di Leila, cantante della band. Prodotto da Ale Sciamane, l'arrangiamento ha visto la finalizzazione di Ciro Prince Vibes, fonico e produttore reggae, e non solo, e più rinomato in Italia, mentre il video è ad opera di Luca Castellaro del Velvet Studio ed è disponibile sul canale YouTube di Reggaeville. Cominciamo quindi l'intervista con la solita domanda, che risponderà Ale Sciamane. La prima domanda è: come sei venuto a contatto con Red, Gold and Green Label and Movement? La mia collaborazione con Red, Gold and Green è iniziata nel 2018, quando ho iniziato a far parte dell'Axel e del Reggae Rebel Band, e da quel momento ho iniziato a far parte di questa splendida realtà. Diciamo che io già seguivo prima, perché ho sempre pensato che come etichetta era molto valida, che vedevo che facevano uscire degli artisti molto molto validi, e era quasi un sogno lavorare con loro. Insomma, apprezzo tantissimo anche il loro modo di approcciarsi alle cose, di lavorare, fino a che, insomma, ho iniziato dal 2020, nel periodo di pandemia, a cercare di fare un nuovo progetto. Io, e non solo io, insomma, come produttore principale, con i musicisti che ho trovato, dal nome Beating Souls, e appena abbiamo finito di registrare il primo brano l'ho mandato ad Emiliano e a Federico ed è stato subito apprezzato, e adesso abbiamo iniziato a collaborare assieme ufficialmente. Quali sono le vostre fonti di ispirazione, a chi vi ispirate o chi vorreste magari diventare un domani? Le nostre fonti di ispirazione principale, diciamo che come entità di band, visto che siamo in 10, abbiamo la sessione fiati, la sessione ritmica con percussioni, e diciamo che ci ispiriamo più che altro, il nostro gruppo di riferimento sono i Groundation, però insomma i vari gusti che ci sono all'interno della band, ti potrei dire Manu Chao, potrei dire Alborosi da parte mia, che lo adoro tantissimo, e potrei dire, beh, comunque sia chiaramente Bob Marley, perché è il padre di tutto, che potrebbe essere anche scontato, ma visto da musicista, insomma, anche no, perché chi è che riesce a fare musica come ha fatto Bob Marley? Sì, ci si prova, ma è l'unico, il solo e originale. Comunque sì, queste sono le nostre fonti di ispirazione principale. Quale artista italiano o internazionale avreste voglia, vorreste produrre una collaborazione, un featuring? Diciamo che artisti con cui volemmo realizzare un feat, al momento non abbiamo in mente dei feat in particolare. vedremo con l'andare del tempo che genere ne uscirà, perché man mano che componiamo i brani iniziamo anche a capire un attimo dove andare a parare. Insomma, abbiamo iniziato così in periodo di lockdown, perché eravamo, ci conoscevamo già tutti da tempo, ma ognuno aveva i propri progetti, quindi insomma ci siamo detti proviamo a fare qualcosa a distanza. Sono usciti dei brani che stiamo sistemando tuttora, e sai, un po', ma se modifichiamo qui, modifichiamo là, e iniziano a prendere anche una forma un po' diversa, e vedremo anche in base a quello. Comunque sia, per ora stiamo cercando già di fare un featuring con una persona che posso ancora nominare, ma con una voce molto molto black, che non vedo l'ora di inserirlo all'interno del nuovo brano che stiamo scrivendo. Andiamo quindi a sentire questo primo singolo ufficiale dei Beating Soul. Il pezzo è Colorful World, lo trovate sul video, lo trovate sul canale YouTube di Reggaeville, e lo trovate su tutte le principali piattaforme. Beating Soul, Colorful World. Thank you. come hai vissuto la scena reggae nazionale in questo periodo di serate a distanza, di distanziamento forzato, e soprattutto come avete passato voi questo periodo? La scena reggae nazionale in questo periodo, purtroppo, come tutti sappiamo, è un po' ferma, perché questo coronavirus ha un po' impedito a tutte le realtà di tante realtà di essere realizzate, purtroppo, perché tanti festival sono stati cancellati, e ha impedito anche a tante realtà di fare dei festival a pieno regime, come erano sempre stati. Vedo che comunque si cerca, ci sono certe realtà che cercano di, con tutte le loro forze, di continuare ad organizzare, e questo mi dà coraggio, insomma. E questo periodo comunque di assenza di serate stiamo cercando di comporre il più possibile, perché dal momento in cui questa pandemia speriamo che finisca in fretta, vogliamo, visto che siamo una band che è in partenza, vogliamo avere più materiale discografico possibile a disposizione per uscire con il nostro repertorio personale. Quindi diciamo che questo periodo lo stiamo sfruttando al massimo per scrivere tanti brani. Il periodo più difficile sembra rimasto, diciamo, alle spalle, anche se non dobbiamo ovviamente abbassare la guardia visto quello che si sente. Ma come ti aspetti sarà la ripartenza? Cosa ti aspetti, insomma, dall'estate? Quando questa pandemia finirà, mi immagino una ripartenza col botto. Immagino i festival pieni di gente, perché la gente ha, secondo me, ha proprio voglia di ripartire, compresi noi musicisti, perché tanto tempo in assenza dal palco, risalirci sarà una bella emozione, insomma, come la prima volta. E perché sai, quando stai tanto tempo distante dal palco ti manca tanto. Come me in questo momento qua, io ne sto soffrendo tantissimo, cerco di sopperire continuando a scrivere brani e cercando di non perdere la speranza mai. Ringraziamo allora Ale Sciamana per la disponibilità, Federico Virtus, la Red Golden Green Label and Movement, come sempre, per la collaborazione, e continuiamo con la trasmissione. Questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23, Pirata e Web Radio. E continuiamo come tutti i mercoledì 21-23 Pirate Radio, Fire Upon Babylon in session, e partiamo con Hilarious Electra. Redile qua. Continuiamo come tutti i mercoledì 21-23 Pirate Radio. Poi abbiamo in session. Partiamo con Hilarious Electra. Prendi qua. Every day, summer dancing, forgetting their troubles. Now that the sun is at the climax, I've no doubt we drop our troubles. We are happy and contented, cause we are riding in the rising sun. We've been singing, we've been dancing, we be shouting all night long. We sing so high. We want to have fun. We be singing, we be dancing, we be shouting. The Royals, quando te sbagli, non a caso. Rulers of the world. Yes, Ilario, col dono dell'ubiquità, in diretta su Port Royal alle selezioni e direttamente dal lavoro all'ascolto. Bless up yourself e dai Satisha. Ah, è vero, questo l'ho scordato, stavo pure vicino così. Ho detto, regà, la stanchezza de... Perfetto stasera. Bible, I don't know what I do. could save my life with a song. See, you say it's not a problem that I can't take. To all my people, and I love you. Go on, you go on, you go on, you go on, you go on. My dad that saved my life. Hey, hop into my car, and I didn't get very far, yeah. Cause I just on my mind. And he never, never treat me unkind. Last night, Christ still saved my life with his songs. Yeah, last night, Christ still saved my life with his songs. It's not a problem, but I can't take, man. You are my people, and I love you. No need to go around the bush. No need to, no need to encore. Everything you do, I can see. No need to hide. Last night, Rasta saved my life with a song. Last night, Rasta saved my life with a song. Ooh. Oh, yes. She bought me a guitar. She said, from what she hear, one day I'll be a superstar. Me and my guitar on Broadway. She said, potential is all I've got, and I impress her a lot. She said, son, keep it up. One day you'll make it to the top. Keep on trying, boy. Remember, practice becomes perfect. It will never happen overnight. So all you got to do is try. Then one day, the world will know how great you are. And I'll be proud of you, boy. With a hit tune bubbling on the charts. Guitar Junior Marvin, Ilario, Selecta. Ai controlli, tavoli, Pondi Mike, questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23. Ancora per questo e il prossimo, poi ci risentiamo a settembre. Me wear jewelry, then me pocket full up of money. The queen say she love me. Me not criminality. Me not cut me not see. To achieve vanity. Me not cut me not see. Me not criminality. To achieve vanity. See me ya, see me ya. A who me favor. See me ya, see me ya. A who me favor. See me ya. A who me favor. Ooh wee, see me ya, see me ya. A who me favor. See me ya, see me ya. A who me favor. See me ya. A who me favor. Gee wee gee. Whoa. Fire keep on burning all deception of the wicked one. Tag we step in, yeah. Out of the wine. Think of this world, you build up a champion, right up the yard. Trouble again, yeah, you know we are making. We no fall up on them, whatever it takes. One day the mafia fall, then we put our bread against the bread. Or if you get the cheddar, end up in a war. Charge and we are receiving the land. And we are striking mad at earn. And the whole of the ghetto youth was up by not as long. One day the mafia fall, ghetto youth are stronger. Nobody put we under, we stepping on. Charge and we are receiving the land. Everlasting fire keep on burning, all deception of the wicked man. Don't let the land and keep on falling, keep on falling. Yeah. Yeah. Can't stop consciousness, keep growing, growing, growing. Yeah, charge on everything. Work off to pay the bills. Put in your man a place for sales. Pull some of them you can't fool me. Confuse them in a confused way. $1 million for a million war. A million man I go get too far. Blanca and Calabar. I set the conscience in a the yard. Make a music off the guide way. Rally we place in a money. Turn off the speakers. Everybody feeling irate. One love we are vibing. Beat up and deal with the timing. Unity rising. Come on. One year the mafia fall, then we put our bread against the bread. Or if you get the cheddar, end up in a war. Charge and we are receiving the land. And we are striking mad. Quella che sentite è The Sun, Barney Spear, ed è anche l'ultima tune di Hilario Selecta per questa sera. Questa è Port Royal dalle 21 alle 23. Tra un pochetto spazio alla seconda intervista di questa sera, Lowby, direttamente da Brescia. Dillo Hilario! Are you ready? Per le interviste andiamo a scoprire il progetto Low B direttamente da Brescia. La prima domanda che facciamo a Laura, cantante della band, è come nasce questo progetto? Come nasce il progetto Low B? Hey, hi, qui è Laura direttamente dai Low B. Dunque, i Low B in realtà sono di fatto un'evoluzione di un progetto precedente e sono un'evoluzione derivata dalla crescita di noi singoli come artisti e questo di conseguenza ha portato alla crescita del sound come gruppo. Infatti abbiamo allargato i nostri orizzonti creando uno stile ibrido, se vogliamo, che comunque si basa sulla musica in levare, ma insieme a questo aggiunge altri generi della black music che amiamo molto, come l'hip hop, il funk e il soul. Quali sono le vostre influenze, se così si può dire? A chi vi ispirate o chi vorreste diventare magari in un futuro? Allora, per quanto riguarda le nostre influenze, parlare di influenze per tutto il gruppo è davvero difficile. Siamo sei persone diverse, ognuno di noi porta la propria personalità, i propri gusti in tutti i brani che componiamo. Infatti è per questo che non abbiamo ancora trovato esattamente un gruppo con cui riusciamo a fare un paragone diretto. Nonostante ciò è evidente che ci sono alcune influenze forti nei nostri brani. Per citare alcuni nomi possiamo dire Alborosi, gli Steel Pulse, io sicuramente Lauryn Hill, i Groundation, le frequenze blues, soprattutto nella chitarra, e le sonorità e lo stile chiaro di Motown. Come al solito andiamo a scoprire anche qualche estratto da questo primo lavoro dei Low B, No Flag, che trovate su tutte le piattaforme digitali. Questa è No Flag Man. The light out of my grave and full of pride, I spun out my faith. The fog, the rain, I stand the faith. It's proving up to me what I never thought it would be, reflecting everything around me. This mirror on my face is trembling, this bridge is never ending. Shadows are shining through the shelter I enter. The light on the horizon is hardening my bones. Magic mirror, we're so close. Here's the land that I dreamed of. I've been punished looking higher, where people treat me like a liar. This wish is to survive. Mirror on my face, humans in my sight. I've been punished looking higher, where people treat me like a liar. This wish is to survive. Mirror on my face, humans in my sight. On the wall, was it the fairies where I could walk? That's not the fairy land I thought. People don't like me, it's only hate that I can see. They're setting aside who has mercy on me. I'm the worst in their mind, 'cause that's the nation of the blind. So how can I live with my heart full of pain? If I look at you, your face becomes mine. I see your soul, your goodness, your crime. The mask doesn't hide, any mask is so vain. The only way I have to show humanity, to break my mirror, let them stare at my real face, which is a shadow looking glass, deprived of any flag. I've been punished looking higher, where people treat me like a liar. This wish is to survive, mirror on my face, humans in my sight. I've been punished looking higher, where people treat me like a liar. This wish is to survive, mirror on my face, humans in my sight. Looking higher, for people treat me like a liar. My deepest wish is to survive. Mirror on my face, humans in my sight. I've been punished looking higher, for people treat me like a liar. My deepest wish is to survive. Mirror on my face, humans in my sight. I've been punished looking higher. I've been punished looking higher. I've been punished looking higher, where people treat me like a liar. Deepest wishes to survive, mirror on my face, humans in my sight. Com'è stata l'esperienza di produrre questo primo vostro album nello studio di Bonneau, della Bonneau Music a Viareggio? Quali sono state le vostre impressioni, insomma, nel lavorare con sì fatto produttore? No Flag, il nostro primo album, è prodotto dalla Bonneau Music Label ed è stata la nostra prima esperienza in uno studio professionale. Ci ha fatto crescere tantissimo da morire. La Bonneau, per quanto riguarda la produzione, ci ha aperto, spalancato gli occhi su aspetti della musica a cui mai avevamo anche solo pensato, dalle strutture dei brani, il contenuto dei testi, le sfumature dinamiche, i colori e quant'altro. Per questo gli siamo davvero, davvero, davvero grati, anche per quanto riguarda le nostre dinamiche all'interno di gruppo. Ha messo in ordine i ruoli, la necessità sì di far esprimere tutti, ma anche di dare il giusto peso a ogni elemento. Davvero, siamo estremamente grati a Walter, soprattutto per l'esperienza generale della vita da studio a Viareggio, che io lo consiglio a tutti di andare a registrare sul mare, è una figata. Come avete passato questo ultimo anno di pandemia, fatto di prove, di serate a distanza? Come avete superato, diciamo, il momento di stallo che abbiamo purtroppo sofferto un pochino tutti nella scena e in generale nel mondo? La pandemia per noi è stata davvero, davvero pesante. Basti pensare che addirittura la prima zona rossa è stata istituita un paio di giorni dopo, mi sembra lunedì, rispetto al sabato in cui avevamo finito di registrare l'album, l'ultima sessione di registrazione. Lunedì dopo hanno bloccato, l'Italia chiude, bloccato tutto. Quindi da musicisti bresciani abbiamo sofferto davvero tantissimo il lockdown, anche perché, altro aneddoto simpatico, non abbiamo mai potuto provare nemmeno con la zona arancione, visto che la sala prove è anche la casa dove abita il nostro batterista ed è extra comune rispetto a tutti noi altri membri, quindi veramente non abbiamo provato per un sacco di tempo. Quindi l'unica soluzione è stata quella di creare un format che abbiamo chiamato Homemade Jams, con questo gioco di parole del fatto in casa, ovvero delle cover appunto fatte in casa, suonate in cameretta e poi registrate insieme, i video filmati che potete trovare ancora sulla nostra pagina Instagram. Continuiamo alla scoperta dei singoli contenuti nel primo disco dei Low B, No Flag. Questa volta andiamo ad ascoltare Fallin. I'm gonna say income the thing called Fallin. Yeah, you me? Love alongside Lion D. So the thing's here. Oh, yes, my sister. The cuddle of a mother who is holding her own son protects from every wave the creature that just born. There is ice into their bones and no one's allowed. Someone so proud, no matter how. The only thing they're dreaming of is getting safe somehow. So help yourself, cause if they're sinking, we all are falling. Yes, we are falling. Don't even know it. Falling down, down. Our age is growing. This is the pouring rain crashing down, down. But I won't betray my own interests. So many problems in my house that I can't handle others. Don't tell me anything, mother. To have a son, and I know that civil blood makes civil hands unclean. And even though I know I'm wrong, I can see who I can trust. Yes, we are falling, don't even know it. Falling down, down. Our age is growing. This is the pouring rain crashing down, down. Hey, my people, stand up for your rights. Cause slavery time's soon done. Never lose the faith that you shall overcome. Now the system is collapsing, Babylon falling down. It'll blow up till it busts up like big bubble gum. Them can't hold we down, them must let we go. Why the table turn, the man will learn it now. Mankind hurting behind curtains. It is burning like a fire in a furnace. Me not love like no clown in a circus. It grim hard to see what one on the earth now. Yes, we are falling. Don't even know it. Falling down, down. Our age is growing. This is the pouring rain crashing down. Yes, we are falling. Don't even know it. Falling down. Down. Our age is growing. This is the pouring rain crashing down. We don't mind what the nation is. E ancora tratto dal primo lavoro dei Lobi, No Flag. Andiamo a sentire quest'altra tune. Il titolo è No Pain. Welcome, think of home. Here's the place where you are home. Leave your worries, leave your pain. That's the place where you should stay. You're safe, understood. State vivendo la ripartenza? Cosa vi aspettate, insomma, da quest'estate? Siete già ripartiti con dei live? Quanto riguarda la ripartenza, invece, non appena abbiamo avuto la possibilità di effettivamente trovarci senza problemi di zone gialle, rosse, verdi, ci siamo chiusi, veramente blindati, anche se con le dovute distanze di sicurezza, in sala prove e, viste le difficoltà evidenti del settore della musica e dell'intrattenimento, oltre al live elettrico abbiamo lavorato ad una versione acustica un po' più intima, un po' dove si sentono le sonorità dell'album in elettrico, ma comunque ha senso e ha una sua logica anche la versione acustica. Infatti ultimamente stiamo girando, le date che facciamo sono principalmente in acustico, tranne il 20 agosto, dove abbiamo un'apertura importantissima in elettrico alla festa di Radio Onda d'Urto per gli Africa Unite, per cui siamo davvero davvero davvero in presa bene, non vediamo l'ora, soprattutto perché finalmente portiamo in giro il live elettrico, che non abbiamo ancora suonato tutto l'album dall'inizio alla fine, siamo davvero davvero davvero gasati. Quarto e ultimo estratto da questo nuovo lavoro di Low B, No Flag, andiamo a scoprire In Heaven and Hell. I will pray to you, 'cause we stand between heaven and hell. between heaven and hell. Siamo ancora Laura e vi ricordiamo che il primo disco, No Flag, è disponibile su tutte le piattaforme, prodotto da Bonno Music. Grazie ancora Laura e grazie ancora il Lowbee. E allora continuiamo così come tutti i mercoledì, questo è Port Royal dalle 21 alle 23. E anche questa sera andremo in selezione dal vivo DJ Smash, Pondi Control, Tauli, Pondi Mike, Dillo Smash. One of these mornings to wake up and find your face on a pillow lying right next to mine. I wanna go to the party in the smoking and the rum. And bust an extra wine, I beg with see the person. Well, every time I fantasize, me see your lips, me see your eyes. You trigger finger to something, I lift the rude, you're hypnotized. For you, it's just a thing, just another little thing. But for me, this is heaven and the angel that must sing. It's a pity you already have a wife. And me don't have a man in my life. Rude boy, it's such a pity, yeah. I say it is such a pity. You already have a wife. And me have a one man in my life. Rude boy, it is a pity. Oh, no, no, no. Non mi fido di voi. Non mi fido di voi. Non mi fido di voi. Non mi fido di voi. Non mi fido di voi. Se vuoi sapere quanti sono contro il nucleare, si arriverebbe a un numero che non si può contare. Dovresti comprendere anche ogni animale, ogni pianta, ogni nuvola, ogni goccia del mare. Saprebbero distinguere il bene dal male, usando l'istinto e la forza vitale. La vita sul pianeta è minacciata da un progetto criminale da fermare. Voi siete proprio folli, pensate sulle soldi, prendete i vostri accordi. Ma il problema delle scorie come lo risolvi? Con i rifiuti radioattivi nel mare sepolti, tanto non si parla e non si fanno i controlli. Voi siete proprio folli, pensate solo ai soldi, Chernobyl rimane nei ricordi. Il Giappone insegna quanto questa è una follia, esistono altre fonti d'energia che non provocano morti. Non mi fido di voi, non mi fido di voi, non mi fido di voi. Non mi fido di voi, non mi fido di voi, non mi fido di voi. Se il sole splende sopra di te, se il vento ancora soffia forte, se la libera acqua scorre veloce, tu non hai bisogno più del nucleare. Se vuoi continuare a respirare, se le mutazioni non puoi soffrire, se le armi se vuoi sapere quanti sono contro il nucleare, si arriverebbe a un numero che non si può contare. Dovresti comprendere anche ogni animale, ogni pianta, ogni nuvola, ogni goccia del mare. Saprebbero distinguere il bene dal male, usando l'istinto e la forza vitale. La vita sul pianeta è minacciata da un progetto criminale da fermare. Voi siete proprio folli. Non mi fido di voi, non mi fido di voi. Original Ganja Smoka. Peccicca non te ne nutu pregiudizio del vagnone che te la fuma. Ma tu ne te la dice moi, spricula. Ganja, si tiene la più buona. Mi faci stare allegro e sereno, te paro a ce me rilasso. Ganja, vecchio io libertà. Non puoi stare arredo sul stato che a fianco te considera. Ganja, si tiene la più buona. Mi faci stare allegro e sereno, te paro a ce me rilasso. Ganja, vecchio io libertà. Non puoi stare arredo sul stato che a fianco te considera. Mi piace quando crede ambiente positivo, ca. Mi piace stare tranquillo con chiunque con me sta. Mi piace quando piglio mano la più grossa cima. Quando la mano si appiccica, caccia l'ondoro poi mi sballa. Purple lemonade, blueberry, cheese, l'orange, la skunk, la Northern Light, bubble gun, white widow, la shirazat. La qualità variama, la chiupone, la paesana. Almeno solo te la fatta in capo. fumare non fa ghiaccia. Si tiene più buona, mi faci stare allegro e sereno, te parlo e mi rilasso. Ghiaccia, perché io libertà, non puoi stare arredo su stato che ti accude considera. Ghiaccia, si tiene più buona, mi faci stare allegro e sereno, te parlo e mi rilasso. Ghiaccia, perché io libertà, non puoi stare arredo su stato che ti accude considera. Mi gusta de più split, penso namo tu bon, mi ondeggio così, praticando il mio flow, sta tranquillo così, me sento pisello, spiego la gira, la stanza, la tua, la capo, mu come un po'. Ernest Erba. DJ Smash. DJ Smash, Pondi Control, Tavoli, Pondi Mike. Coming from, then you wouldn't have to ask. from Africa, brought to America. Said he was fighting on the right, fighting for survival. Said he was a buffalo soldier in the war for America. Said he, why yo yo, why yo yo yo, why yo yo yo yo yo yo, why yo yo, why yo yo yo, why yo yo yo yo yo yo yo. Buffalo soldier tried into the land. Said he wanna run and make him wanna hang. Tried into the land. Yeah, yeah. Said he was a buffalo soldier in the war for America. Buffalo soldier, dreadlock rasta. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. Some call it town. Some call it the weed. Some call it marijuana. Yeah. Some of them call it ganja. Never mind, got to legalize it. And don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. Singers smoking and players of instrumental. Legalize it, yeah, yeah, that's the best thing you can do. Doctors smoking, nurses smoking, judges smoking, even lawyers. So you got to legalize it. Ay, tía, diga mi hija, ¿no me veré acá? Esta canción es tía. Luce, luce, como mele. Senti, chaca. Aria sei per me, con la tua leggerezza. Aria sei per me, con la tua forza. Aria sei per me, con tuo sorriso, con delicatezza. Aria sei per me. Hai occhi che brillano come stelle, mani che parlano come sorelle. Un mondo da esplorare con i miei sensi e la tua pelle. Amo di te la tua dignità, la tua semplicità, la tua naturalezza senza vanità. Amo il distacco con cui ami e la passione con cui ti dai. La pienezza del tuo orgasmo è quello che fai. Anche se sei distante non c'è distanza fra noi. Se ti chiamo ci sei, c'è fragranza fra noi. Aria sei per me, con la tua leggerezza. Aria sei per me, con la tua forza. Aria sei per me, con tuo sorriso, con delicatezza. Aria sei per me, e se mai sei circondata di te, ogni onda può essere l'ultima. questo mare non segue una strada, diventa una strada l'unica. Questo mare è tutto intorno a me, questo mare è tutto intorno a me. E scusate ma non so cosa farò, la terra non mi piace, questo è ciò che so. Magari me ne andrò, navigherò a bordo di una nave, ruberò uno yacht. I soldi no, il lusso no, la fama no, gioielli no. Magari nello spazio un giorno troverò un altro pianeta con H2O. Questo mare porta cose con sé, porta sogni, porta profumo e musica. Questo mare sta circonda anche te, ogni onda può essere l'ultima. Questo mare non segue una strada, diventa una strada l'unica. Questo mare è tutto intorno a me, questo mare è tutto intorno a me. E se mi perco con la mente vado troppo là, vedo il mare che sommerge Europa e America, perché l'acqua porta vita e può anche toglierla. Per riprenderci ci serve una calamità. Mi sa che il mondo che c'ho intorno questo già lo sa, se solo ognuno rinunciasse a un po' di ciò che ha. Vorrei che il mondo rivedesse le sue priorità, ci serve un'onda che ci porti un po' di novità. Questo mare porta cose con sé, porta sogni, porta profumo e musica. Questo mare sai circonda anche te, ogni onda può essere l'ultima. Questo mare non segue una strada, diventa una strada l'unica. Questo mare è tutto intorno a me, questo mare è tutto intorno a me. Mentre il sole piano muore, sento lento il bisogno di te. Metto via tutte le parole e mi affido a te, sì mi affido a te. Mentre fuori il freddo e piove, sento che stai vicina a me. Sposto via tutte le persone e viaggio con te, sì viaggio con te. Sì, io so che sei sempre vicino a me. La mente viaggia e tutto è possibile. Mi metti gioia e voglia di vivere. Niente di violenza in questo mondo facile. Tutto svanisce ma tu rimani sempre. Accanto a te sogno, te problemi si perda. Acconta vita un po' che talura cerca. Che stanco molto ancora grave tante fino a chi mora lotterà. Mentre il sole piano muore, sento lento il bisogno di te. Metto via tutte le parole e mi affido a te, sì mi affido a te. Mentre fuori il freddo e piove, sento che stai vicino a me. Sposto via tutte le persone e viaggio con te, sì viaggio con te. Musica di musica, gioia, musica, amore. In ogni momento riempie il cuore delle persone. Quando stai male solo le disamare. Quando stai bene in armonia con il mondo intero le ti fa stare. Scandisci la mia vita a ritmo lento. Mi sento perso quando so che non ci sei. Mi perdo tra le note del tuo mondo e canto la mia gioia assieme a lei, assieme a lei. È una forza che va sola, senza il bisogno di alcuna parola. Musica libera mi da ogni paura. È un brivido che respira dentro l'essenza della mia vita. Musica. Smash, large episode, Hilario, Sierra Maestra, wow, fire upon Babylon, oh gosh, here it is. It's a big sound from Roma town. Fire up on Babylon, champion sound. Big, big tune them around from the start. Ooh, them bad. From the north to the south, to the east, to the west. Fire up on Babylon at the best. Rap a pom pom pom pom. Fire up on Babylon at the real champion. Bang, bang, shut me down. Bang, bang. Oh gosh. Bang, bang. It's all about fire upon Babylon. Bang, bang. Ba, ba, ba, ba, ding, dong, dong. Shut me down, bang, bang. Light the ground, bang, bang. The That's right. In a the club, damn bad. In a festival, damn bad. See all the people, damn mad. Fire upon Babylon, oh Lord, oh Lord, oh Lord. All the people, damn scream, oh Lord, ooh la la la. One fire upon Babylon, in a the area. It's all about fire upon Babylon. Sierra Maestra, from Roma Town. Oh gosh, we got Towele, Ash, Smash, Hilario. Oh gosh, here's the ground. Rama pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Fire from Babylon, not even. Watch come around, but tell her I've no rest. Take her. When you hear this, start bleed. Fire from Babylon, mash it up in the not a mercy. Fire from Babylon, not even. Watch come around, but tell her I've no rest. Take her. When you hear this, start bleed. Fire from Babylon, mash it up in the mash it up. When you know what it's your song, make you dance. Follow me upon the mission, I'm a worthy champion. Italy, we come from with fire upon Babylon. Hush, make me feel like a judge, a soldier. What tell you, make me feel like a Harriman soldier. Move your body from the legs to the shoulder. Fire upon Babylon, the ruling sound. Hush, play the tune, I can be girl, them a bubble. Article song, them a killer from murder. Fire upon Babylon, the bass. Watch come around, no tell her I've no rest. Take her. When you hear this, that lead. Fire upon Babylon, mash it up in every place. Take her. Fire upon Babylon, the bass. Watch come around, no tell her I've no rest. Take her. Hey. Now take a pill, me say, now take a pill. Fire upon Babylon, for the Babylon ill come. Babylon ill, me say, Babylon ill. F and in a the bash, queen a kill, fear ill come. What do you feel, me say, what do you feel? Good vibration, violence, queen a deal. Laugh is a will, me say, laugh is a will. Turn and turn around from the top to the hill. Take fire from Babylon and the base. Watch come around, no tell her I've no rest. Take her. When you hear this, that play. Fire upon Babylon, mash it up in every place. Take her. Fire from Babylon and the base. Watch come around, no tell her I've no rest. Take her. I'm following a man now, following a man now, following a hey. Better no follow me, but now the shine of my world, the champion, Italy. We come from with fire upon Babylon. Hush, make me feel like a judge, a soldier. What tell you, make me feel like a Harriman soldier. Move your body from the legs to the shoulder. Fire upon Babylon, the ruling sound. Hush, play the tune, I can be yelled in my bubble. Article sound, them a killer from murder. Prima di lasciare le redini della console a Osh, vi lasciamo con Vibe Delivery e Give Me the Lighter. Vai da Smash! Prima di lasciare le redini della console a Osh, vi lasciamo con Vibe Delivery e Give Me the Lighter. Vai da Smash! Forse negli anni 50, in cui non c'era niente, ma la botte era già tanta. Univano le case e facevano feste in piazza, come il veterano Tom. Yeah. laica, chi mi dilaita, porto ruzza in colcia e li pompo per la strada. Chi mi dilaita, chi mi dilaita, tengo viva una storia ormai dimenticata. Chi mi dilaita, chi mi dilaita, se vuoi fare musica studia com'è nata. Chi mi dilaita, chi mi dilaita, porto ruzza in colcia e li pompo per la strada. Questa storia nasce forse negli anni 50, in cui non c'era niente ma la botte era già tanta. Univano le case, facevano feste in piazza, come il veterano Tom e Greg Sebastian. Kingston era pronta, lo stava aspettando, un movimento musicale da cambiarla tanto. Si basa su dei giradischi ed un impianto, tradizione culturale di cui oggi canto. Ricordo che i pionieri di Upgrade e Cox sono i primi clash in strada. Forse nel 58 l'evoluzione da rocksteady ska, rhythm and blues, ad arrivare al reggae roots. Puoi sentire Groove, Desmond Decker, Prince, Buster, Toots and the Midas, Robert Nesta, National, ma in una baita la voce dei Sufferers sveglia la Giamaica. Per questo mi capisci se dico chi mi dilaita. Chi mi dilaita, chi mi dilaita, porto ruzza in colcia e li pompo per la strada. Chi mi dilaita, chi mi dilaita, tengo viva una storia ormai dimenticata. Chi mi dilaita, chi mi dilaita, se vuoi fare musica studia com'è nata. Chi mi dilaita, chi mi dilaita, porto ruzza in colcia e li pompo per la strada. Chi colleziona dischi e chi scrive testi, chi gira con strumenti musicisti brutti ceppi, chi costruisce muri di casse e fa la festa. Roster, selector, summon, barista, la massive arresto, la vota arresto. Non aveva niente ma han creato un movimento, è la voce della gente che esce dalle casse, ognuno i suoi parametri per giudicare la classe. Girano i dischetti come girano le canne, girano le palle se mi suoni hit più grasse. Grando l'etichetta non puoi leggere le tracce, original sound non si copia come in classe. Ora la dentro la sconfinata è contagiato tutti, mi play reggae music vino like cacciati gialli. Studia sta cultura pure se non darà frutti, stare in birra l'anima e il calore di sti bassi. Chi mi dilaita, chi mi dilaita, porto ruzza in colcia e li pompo per la strada. Chi mi dilaita, chi mi dilaita. E continuiamo allora, uno dopo l'altro, tutti selecta di Fire Upon Babylon. Continuiamo con la diretta. C'è Osh qua vicino a me, anche se è difficile da credere. Dillo Osh! By me bedside, side. Open book of scriptures, I man won't deny. Keep it high. The grass is greener on the other side. I shit. Of herb they by me bedside, side. Open book of scriptures, I man won't deny. Keep it high. The grass is greener on the other side. A good meditation, I man kind. Send me up and catch up all a fire. Pick up on the sitting, sitting with strong. Me have the same key a Rizla. Big up on the sitting, sitting with strong. Forgot me have the same key a quarter. Come and find on me sitting in the dome. Me have the same key a lighter. Big up on down Babylon. Hey. Oh, green grade, purple grade, brown grade for me. High grade, upper grade, Medicaid for me. Give me meditation, give me vibes in a hurry. A bum jar of herb keeps me current. Way back in the days of old, before Babylon entered where plants were grown, a little jar of herb was on Solomon's throne. You can't tell I and I leave it alone. It's like 1, 2, 3 jars for me. Come take a seat, a little reasoning with me. Elevate yourself, keep your mind ever ready, steady. Will me up and catch up all the fire. Pick up on the sitting, sitting with strong. Me up and send me a Rizla. Pick up sitting singing this drum. Forgot me up and sent me a quarter acre. A little bit do. Give me a. Me up and sent me a lighter. Pick up on them garbage. I'm burning it right now and them can't stop it. I'm more herbs, I'm more herbs. Yo. No matter how much herb me bun, me say me still want more herb. No matter how much herb me bun, when me say me want more herb. So no matter how much herb me bun, me say me still want more herb. No matter how much herb me bun, when me say me want more herb. Them in a orange illa when me cool and when me chill. Ganja make me medicine, it a make me feel. Them a fight against herb, man, them a plant it still. Every morning them gone over the hill. Them the sail of a flower, sail of a till. Those bun a chalice, want a split still. No matter how much herb we burn, we say we still want more herb. No matter how much herb we burn, we say we want more herb. Them no matter how much herb we burn, we say we still want more herb. No matter how much herb we burn, we say we want more. Osh Selecta ai controlli, Tauli Pondema e questo è Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23, Pirata e Radio, penultima puntata di stagione, poi si risentiamo a settembre. Almighty. rimane in noi. We must stop fighting against one another. Help yourself from off the ground and get on the ladder. In life you see there is many strides, but you must always have a charge. Keeping your soul and your mind open. Pick yourself from off of the ground. Find something to do constructive. You don't want to be like a circus clown. Pick yourself from off of the ground. Don't let the pressures of life get you down. You don't want to look like no come around in time. Every day of your life you'll be haunted. Root for your nerves and you get wanted. Stop parable, make friendship moving. You're like a fugitive always on the run. Your days will be numbered. You better pull up your socks and get yourself ready. Pick yourself from off of the ground. Find something to do constructive. You don't want to be like a circus clown. Pick yourself from off of the ground. Don't let the pressures of life get you down. You don't want to be like no come around in time. Grabbing your brother's I'm in the dead, I sing off with the dread. Ultima tune per Osh per questa sera, l'appuntamento con Port Royal per mercoledì prossimo per l'ultima puntata di stagione. E poi all'ultimo. Ultima tune per Osh. E con questa tune vi salutiamo, vi ricordiamo appunto l'appuntamento Mercoledì prossimo, ultima puntata di Port Royal per questa stagione sulle frequenze di Pirate Radio. Poi ci rivediamo a settembre. Per chi vuole, ci trova domani allo Zobar dalle 19 nel giardino. Poi l'appuntamento sopra con il solito showcase hip hop, Bless Up, Nori, Rage. Venerdì saremo al Sally Brown insieme a Tuna, Michelle Lara Family. Sabato Coconut e lunedì trovate me e Adriano Bono a Maccarese. Dategli forte, buonanotte a tutte e a tutti, bless up yourself.